sai. Tornerò. Chi sono tu lo sai. Crescerò. E un giorno mi vorrai. Tornerò. Chi sono tu lo sai. La gente in città parla male di me. La gente in città parla male di te. La gente in città parla male di te. La gente in città parla male di me. Dammi tempo, non sentire mai la voce dei tuoi guai. Sono un albero, divento legno, basta una scintilla, riprende la mia vita. Ho le mani come argilla, non sono un parassita, non sono un perditempo, tu sei la mia guida. Se la vita è una musica assordante, sono l'accordo principale portante. Canto ma nessuno mi sta sentendo, amo ma nessuna mi ha ancora scelto. Il me stesso di oggi è troppo piccolo, il me stesso di domani è su un patibolo. È il buio che mi illumina le mie profezie, riacquisto giovinezza ripetendo le follie. Perché non muori se hai perso qualcosa, il silenzio rafforza, lotta ancora. La voce fantasma di passaggio dimora, forza delle tenebre che batte con l'aurora. Crescerò. E un giorno mi vorrai. Tornerò. Chi sono tu lo sai. Dammi tempo, non sentire mai la voce dei tuoi guai. Cerco la chiave, cerco l'interruttore. La porta non si apre, la luce muore. È una dannazione, un peccato dipendenza. Un punto terminale, il mio flusso di coscienza. Metto a disagio con i miei comportamenti, ma dopo ti contagio la mia gente come gli elfi. Abbiamo sogni che bruciano da svegli. Controcorrente gli anticristo, siamo eterni. Siamo come dei bambini. E l'essere bambini è l'arte commovente degli uomini maturi. Per questo tu ci usi. Tu sei opportunista, per questo poi ci escludi. Esco di casa, immerso nei pensieri, dimentico le scarpe, dimentico il mio ieri. Non ci conosci e ci parli da vicino. So che la tua vetta è soltanto un gradino. Crescerò. E un giorno mi vorrai. Tornerò. Chi sono tu lo sai. Crescerò. E un giorno mi vorrai. Tornerò. Chi sono tu lo sai. La gente in città parla male di me. La gente in città parla male di te. La gente in città parla male di te. La gente in città parla male di me.